c'è un elenco di tutte le nazioni che hanno aperto dei contenziosi. Quando si scende sotto l'unità vengono indicate altre nazioni, in quelle altre nazioni c'è anche l'Italia. Chi è invece in testa in queste classifiche? Giappone e Stati Uniti sono le nazioni che più si sono mosse con riferimento a questo. È pur vero che ci sono nelle unità i casi italiani e quindi è di 2-3 anni fa quando si è realizzata una accordata tra diverse aziende italiane e francesi per la protezione dei loro marchi, parlo di Gucci, Prada, Chanel, Louis Vuitton, Burberry contro Silk Market a Pechino e vinsero la causa contro questo grosso centro commerciale che vendeva merce contraffatta. Gucci ha diversi contenziosi in questo momento aperti, c'è anche il caso della Juventus Football Club che ha vinto e ha riottenuto l'utilizzo del proprio nome e dominio sul mercato cinese.